Storie italiane. I tre piccoli porcellini. C'era una volta mamma Scrofa che viveva con i suoi tre piccoli porcellini. Figli miei, siete diventati grandi e forti. Voi dovete imparare a vivere da soli e essere indipendenti. Ella diede dei soldi per recarsi in un paese lontano per costruire le proprie case. Così i tre porcellini lasciarono la casa della mamma. Sulla loro strada si riposarono sotto un grande albero e durante la notte iniziarono a parlare dei loro progetti. Fratelli, noi ora abbiamo la possibilità di metterci in gioco. Perché non prendiamo delle strade separate e tentiamo la fortuna? Sì, hai ragione. Facciamo come dici tu. Il terzo maiale, che era il più saggio rispetto agli altri due, non era felice all'idea di separarsi. Sapeva che chiunque avrebbe potuto trarre vantaggio dai suoi ingenui fratelli e che si sarebbero cacciati nei guai. Fratelli, io non sono d'accordo. La nostra unione è la nostra forza e noi non dovremmo mai separarci. Sempre le solite prediche. Cosa fare o cosa non fare sono fatti nostri. Sì, non abbiamo bisogno di una seconda mamma. Siamo adulti ormai. Va bene, sono d'accordo. Ho un'idea che aiuterà tutti noi. Oh? Costruiremo le nostre case separate e vivremo separati. Nessuno interferirà negli affari di nessuno. Hai ragione, caro fratello mio. Io approvo. Calma, calma. Non ho ancora finito. Costruiremo le nostre case vicine. Così, in caso di problemi, saremo in grado di aiutarci a vicenda. Sì, hai ragione, caro fratello mio. Va bene, va bene. Sono d'accordo, ma non credo che noi avremo tante difficoltà, caro fratello. La mattina seguente scelsero i luoghi per le loro case e andarono a comprare il materiale per costruirle. Secondo me una casa fatta di paglia sarà economica e molto facile da costruire. Sì, sì. Posso comprare un letto comodo per dormire con i soldi rimasti. Così si diresse da un contadino. Contadino, contadino, voglio comprare della paglia per costruire la mia nuova casa. Sì, certamente, la puoi acquistare. Il contadino vendette la paglia al primo maialino. Il maialino, molto felice, andò a costruire la sua casa. Il secondo maiale vide un taglialegna lungo la strada. Una casa fatta di legno sarà più fresca ed economica da costruire. Con il denaro che mi rimane mi compro un bel soffice materasso. Così comprò della legna dal taglialegna e se ne andò a costruire la sua casa da sogno. Ma il terzo, il più saggio degli altri, decise di costruire una casa di mattoni, in modo che così durasse più a lungo. Avrei preferito dormire su un materasso, ma io costruirò una casa forte e robusta, così da garantirmi un futuro. Si recò in negozio e acquistò mattoni e cemento. Alla fine della giornata, si riunirono nel cantiere e iniziarono a costruire le loro case. Il primo maiale costruì la sua casa di paglia. Sono un architetto molto intelligente. Ho costruito la mia casa molto prima degli altri due. Ora bevo un buon tè e mi riposerò un po' nella mia casetta. Come è riuscito a costruire la casa così in fretta? Se riesco, io finirò la mia casetta stasera molto tardi. Il secondo maialino lavorò duramente per completare la sua casa di legno. Dal momento che la mia casa è fatta di legno, deve essere molto più forte della casa di paglia. Ora mi riposerò in pace nella mia dolce casetta. Anche se i due fratelli hanno impiegato meno tempo per costruire la loro casa, il terzo maialino non si preoccupò del tempo. Stava ancora costruendo le fondamenta della sua casa. Al mattino, quando i due fratelli uscirono di casa, lo dicevano. Cos'è successo, fratello? Hai difficoltà nel costruire la tua casa? Potevi chiedere un consiglio, fratellino. Fratello mio, sto costruendo la casa migliore di tutti. Rimarrà stabile per lungo tempo dalle calamità e dall'usura del tempo. Pensi che noi abbiamo costruito una casa fragile? Pensi che la tua casa sia migliore? Il terzo maialino decise di ignorare i commenti di suo fratello e si concentrò sul suo lavoro. Mattone dopo mattone, in una sola settimana costruì la casa. Passò qualche giorno. I porcellini vivevano felici e spensierati nelle loro case. Ma ben presto, un lupo vide i tre porcellini e pensò di mangiarseli. Il lupo bussò alla porta del primo porcellino. Piccolo porcellino, porcellino, fammi entrare! No, no! Lupo cattivo, nemmeno per sogno entrerai nella mia casetta! Davvero? Allora io, con un solo soffio, farò cadere la tua casa! La mia casa è la più forte di tutte! Fai come vuoi! Il lupo riempì i polmoni e prese una boccata d'aria e soffiava tanto forte verso la casa del piccolo porcellino. Soffiò così forte che spazzò via la casa e fece rotolare il porcellino fino a raggiungere la seconda casetta. Cos'è successo? Perché sei venuto rotolando in casa mia? Il porcellino si nascose sotto un tavolo e gridò: chiudi la porta! Chiudi la porta! Un lupo feroce stava per mangiarmi! Potrebbe venire qui a catturarci! Il secondo porcellino corse e chiuse ermeticamente la porta e poi chiuse a chiave tutte le serrature. Il lupo, molto arrabbiato, cominciò a bussare alla porta. Porcellino! Piccolo porcellino! Fammi entrare! No, no! Nemmeno per sogno ti farò entrare nella mia dolce casetta! Davvero? Allora io, con un solo soffio, farò cadere la tua casa! Io ho la casa più robusta di tutti! Provaci, brutto lupo! Il lupo riempì i polmoni con una boccata d'aria e soffiò contro la casa del piccolo porcellino. Riuscì a spazzare via la casa. I porcellini si resero conto che non avevano più scampo. Non avevano dove ripararsi. Entrambi corsero e per salvarsi si rifugiarono nella casa del terzo maialino. Cosa vi è successo? Perché siete spaventati? Il lupo cattivo ha spazzato via la nostra casa con un soffio! Potrebbe venire qui e soffiare via anche la tua! Corriamo e torniamo a casa dalla mamma! Non può spazzare via nemmeno un mattone della mia casa! Io gli darò una lezione! Che venga! Fratellini, su via, nascondetevi! E non scendete finché non vi do il via, vi raccomando! I due porcellini salirono sullo scaffale. Ben presto, il lupo arrivò ed iniziò a sbattere e spingere la porta. Vai via, brutto lupastro! Tu non puoi abbattere la mia casa, mai! Tu ancora non conosci la mia forza. Io, con un mio solo grande soffio, spazzerò via tutto. Ho spazzato via le altre case. Puoi tentare la fortuna. Perderai solo il fiato e non avrai successo. Il lupo riempì i polmoni con una boccata d'aria e soffiò contro la casa del piccolo porcellino. Ma la casa rimase immobile. Il lupo provò a soffiare di nuovo. Ancora una volta, non un singolo mattone si muoveva. Dopo alcuni tentativi, il lupo cattivo perse il fiato e cadde a terra. Ma il brutto lupo si alzò di nuovo e prese una lunga rincorsa per sfondare la porta. Il fratello lo vide dal vetro della finestra e saltò giù. Tutti insieme soppressero la porta. Il lupo corse con tutta la sua forza e bang! Il terzo porcellino aprì lentamente la porta e vide il lupo cattivo steso a terra. Poi chiuse di nuovo la porta. Il lupo è svenuto. Non è riuscito ad abbattere la mia casetta. Ci saremmo trovati nello stomaco del lupo se non ci fossimo riparati qui. Sì, fratello, tu ci hai salvato la vita. Ma fratelli miei, lui mi avrebbe divorato se entrambi non foste stati qui. Abbiamo bloccato insieme la porta e lui ha perso. Sì, fratellino, ho capito che ho sbagliato. L'unità è la nostra vera forza. Da oggi in poi noi tutti vivremo felici nella stessa casa. Improvvisamente il lupo si svegliò e cominciò a battere sulla porta. Voi cattivi porcellini, sappiate che io oggi vi mangerò. Si arrampicò sul tetto e decise di entrare attraverso il camino. I porcellini sentirono il rumore dei passi sul tetto e capirono il trucco del lupo. Il terzo porcellino accese il fuoco del camino. Il lupo pian piano si avvicinò alla canna fumaria e finalmente riuscì ad entrare. Si fece scivolare pian piano fin giù e presto cadde tra le fiamme ardenti. I tre porcellini da quel giorno vissero felici e contenti.